Allora, 4 gol nel giro di 2 minuti, 2 minuti, insomma, la vostra difesa quando balla, balla veramente forte. Sì, beh, diciamo che il primo gol complicità un po' del nostro portiere, che fino a quel momento si era comportato bene, aveva evitato, sapevamo che il Treviso partiva a mille, abbiamo cercato di contrarlo in giusta maniera, anche rischiando qualcosa. Poco prima ha avuto un'occasione importante noi per andare in vantaggio, non sarebbe stato giusto in quel momento, però questa era la nostra partita nel primo tempo. Sapevamo che anche che il Treviso nel secondo tempo normalmente c'ha un calo fisico, normalmente così è stato, abbiamo approfittato subito. L'unica, cioè, la cosa che non mi è piaciuta è che poi ci abbiamo creduto poco. Fatto il 2-1, dovevamo spingere un po' di più, cercarlo maggiormente questo 2-2, che rischiando quello di... Sì, che poi insomma noi se ci mettiamo là come è successo lo prendiamo lo stesso. E 3-1 è uscito tra l'altro anche su una situazione, un'altra palla inattiva, perché è stata una corta respinta da un calcio d'angolo, quindi siamo usciti lentamente. Parziale così, diciamo, che era quello che prima, dentro 4 nuovi, 2 all'esordio proprio e 2 che hanno fatto 3 partite. Un periodo in cui non ci stiamo allenando nella giusta maniera e ci stiamo un po' così. Adesso abbiamo questi 15 giorni di tempo per cercare di amalgamare i nuovi, che credo ci saranno, insomma, importanti per noi, perché il nostro obiettivo è veramente la salvezza. L'obiettivo non è certo di venire a Treviso e vincere la partita. Fare un po' meglio, sicuramente sul 2-1 crederci un po' di più, perché è una cosa importante. Avete mancato questa grande voglia del Treviso dopo 4 pareggi probabilmente? Sapevamo che il Treviso aveva una voglia grande di voler tornare alla vittoria, e poi insomma si ricordo di prima classifica, è normale che viene la squadra che sta lottando per non retrocedere e ci sia la volontà, la voglia insomma di fare un boccone. Oggi l'hanno fatto, io sono contento dei primi 20 minuti del secondo tempo dei miei, anche se dovevamo crederci un po' di più sicuramente, ecco. Forse magari non staremo qui a parlare di un 4-1, magari chissà, non è che adesso stiamo qua a dire che meritavamo il pareggio. Il Treviso siamo creato parecchio, però siccome il calcio ha fatto gli episodi, sullo 0-0 abbiamo avuto un'occasione noi e abbiamo preso il gol 1 minuto dopo, e sul 2-1 non siamo stati bravi noi, insomma, ecco, a crederci. Come lo aspettavi o qualcosa in più? Così perché quello che avevamo parlato in settimana si è avverato, insomma, un Treviso pimpante, frizzante, veloce, rapido, con scambi insomma in rapidità e velocità nel primo tempo sicuramente, e nel quale noi non dovevamo dare grandi spazi. Per certi versi ci siamo riusciti, perché loro si sono avvicinati al gol su 2-3 versioni, siamo dagli esterni, un paio di spizzate, ma non, diciamo, azioni, cioè, caratteristiche proprio del Treviso, cose che poi hanno fatto una volta andati in vantaggio su 2-1 nel secondo tempo, insomma, per noi poco, però non so, sappiamo che se li lasci campo a questi diventano micidiali, insomma, ecco. Paghiamo un po' il nostro momento di forma che non è ottimale assolutamente. E manca del botto. Beh, vabbè, è uno che ha detto se poi l'ultima partita l'abbiamo vinta con debutto, che ha fatto il gol. Ecco, per dire, ecco, noi tra l'altro oggi ha fatto l'esordio il 5 Roger, che è stato un brasiliano, è stato molto contento. Sono stato contento del ragazzo che è entrato poi nel 92, Frater, 14, 92, il portiere titolare, diciamo, sono due partite che è fuori